Maestro Paganini, suona ancora per me quel motivo in do che fa sognare. Ripeti ancora, prego, sul tuo violino il ritmo moderno sincopato che incanta. Maestro Paganini, suona sol per me, senza il ritmo in do io morirò. Ripeti ancora, prego, che tanta gioia in cuore mi sa dare, mi fa sognare, fantasticare. Il tuo dolce suono scende in fondo al cuore e mi fa sognar l'amore. Sogno notte e giorno ritmi sincopati. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maestro Paganini, suona ancor per me quel motivo in do che fa sognar. Ripeti ancor, prego, che tanta gioia dà. Ripeti ancora, prego, che tanta gioia.